Focus Economia di Sebastiano Barisoni. Diciassette e nove minuti, inizia un'altra puntata di Focus Economia. I temi di questa giornata economico-finanziaria: ci occuperemo della Banca del Sud, che si chiamerà Banca per il Mezzogiorno. Il nome infatti era già stato brevettato, diciamo così, Banca del Sud, da un istituto napoletano, ma oggi il ministro Monti ha chiarito l'operatività di questa banca e ne parleremo proprio in apertura, anche perché, sempre in tema di banche, ma questa volta di rapporto tra banche e piccole e medie industrie, oggi è uscito un rapporto, è uscito il bollettino della Banca d'Italia, in cui tra le altre cose si fa notare come il credito erogato sia calato del 2,2% in media, del 3,5% nei primi 5 istituti bancari del paese, e quindi si riaprono anche in parte le polemiche. Visto che parliamo del bollettino della Banca d'Italia, vale la pena anche ricordare che nel bollettino diffuso oggi la Banca d'Italia ricorda come la recessione mondiale si sia arrestata e si stia profilando adesso una ripresa, in larga parte grazie al sostegno delle politiche economiche adottate nei principali paesi. E per l'Italia si prevede, per la prima volta dopo qui praticamente 5 trimestri consecutivi di calo del nostro PIL, dicevo, nel terzo trimestre dell'anno dovrebbe tornare a crescere il PIL italiano, un più 1%, grazie soprattutto alla produzione industriale. Il dato di ieri, un rimbalzo molto forte, più 7%, che ci rende così speranzosi sulla capacità dell'economia italiana di riprendere. Nel 2009 comunque, secondo la Banca d'Italia, chiuderemo con un meno 5%, nel 2010 dovremo fare un più 0,5%. È chiaro che è un tasso che da solo non basta, nel senso che ci vorrebbero 10 anni con quei tassi, quasi 10 anni, per recuperare il calo del 2009, però insomma sempre meglio un più 0,5 che un meno 0,5, mettiamola così. La produzione industriale italiana però a settembre dovrebbe registrare una flessione di circa il 2% rispetto al mese precedente. Preoccupata la Banca d'Italia soprattutto per i conti pubblici, definiti in notevole peggioramento, perché vanno particolarmente male le entrate fiscali. Le entrate tributarie di cassa hanno fatto un meno 3%, cioè 9 miliardi in meno nei primi 9 mesi dell'anno, e praticamente questo dato poi fa peggiorare l'andamento complessivo dei conti pubblici. In particolare questo gettito è calato, quindi le entrate fiscali, per le imposte indirette, cioè l'IVA. L'IVA ha fatto un meno 9,5%, con l'economia in contrazione purtroppo era immaginabile. La riduzione delle ex IRPEF, delle imposte dirette, è stata invece più contenuta, meno 1,4%. Questo bollettino della Banca d'Italia. Noi ce ne occuperemo soprattutto per quello che riguarda il rapporto banche e prestiti, banche, imprese, banche e clienti. Ancora, tra i temi che toccheremo, il rapporto della Fondazione Einaudi, come ogni anno, un rapporto che chiede che, nonostante la crisi sia nella parte più forte passata, non si dimentichino le cause, quindi si mette mano anche alle regole, alla riforma dei mercati. Che cosa si può imparare da questa crisi? In sostanza il comune denominatore del rapporto, del 14° rapporto sull'economia globale d'Italia, pubblicato oggi dal centro Einaudi e curato da Mario De Aglio. Avremo un'intervista con lui nella seconda ora del programma. E tra l'altro il rapporto della Fondazione Einaudi prevede qualche anno giapponese per l'Europa, cioè di stagnazione economica e bassa inflazione. Tra l'altro, in queste giornate in cui si ragiona molto sui tempi e l'intensità della ripresa, devo dire che i mercati finanziari continuano a macinare rialzi. Anche oggi, in cui molti si prevedevano qualche ritocco dopo la chiusura di ieri, e in effetti erano stati deboli, incerti i mercati lungo tutta la giornata, ebbene, la chiusura di Milano è positiva, di poco, ma è positiva, di uno 0,2% sul FTSE MIB, grazie a Monte dei Paschi che sta guadagnando il 2,6%, Pirelli il 2,4%, Fiat il 2,2%, le CIR guadagnano il 2%, Impregilo l'1,5%, Mediaset più 1%, Comitalcementi Unicredit più 0,90 e ancora chiudiamo con Mediolanum più 0,7, Generali mezzo punto percentuale di rialzo. Fronte opposto, chi più perde oggi? Non so, cioè ci sono tanti titoli con flessioni però leggere, nel senso che la peggiore è STMicroelectronics meno 1,40, poi c'è Tenaris meno 1,2, A2A meno 1%, Terna meno 0,80, Enel meno 0,7, poi lo 0,6 lo perdono Ansaldo, STS, Mondadori, Autogrill, Fondiaria Saiba e il Banco Popolare, Prismian meno 0,5%. In assoluto i migliori e i peggiori, il peggiore Tiscali, attenzione però anche qui, meno 24,5%, il risanamento più 24,7%, Banca Intermobiliare più 16,5%, Elica più 4,3%, tra i peggiori anche Nokia Corporation meno 11,3% e Unilever meno 3,90%. Ultima cifra, poi passiamo alle notizie in breve, quella per i vostri sms, 349-238-6666, ci occuperemo anche di un'iniziativa che è a cavallo tra economia e ambiente, annunciata oggi nel corso del vertice sull'ambiente che si è tenuto a Roma, ossia 1 milione di alberi da piantare nel territorio italiano. Parleremo anche di questo, perché ogni tanto qualche notizia, diciamo che non sia solo strettamente finanziaria e economica, ci piace darla. Rapidamente le notizie in breve. Resta alto il petrolio, $75,2 al barile, non ho dato l'euro, me lo fate giustamente notare, l'euro è vicinissimo a quota 1,50, 1,49,5 in questo momento. Del bollettino della Banca Centrale Europea e del bollettino della Banca d'Italia abbiamo detto, diciamo adesso anche del bollettino della Banca Centrale Europea, che prevede un'inflazione moderata e torna a spronare i governi dell'area euro sulla necessità di avere strategie di uscita da questa crisi prima, cioè approntarle in maniera sostenuta e prima che poi si arrivi a un'uscita da questa crisi con un rischio di eccesso di liquidità. E poi dice attenzione, in Italia, in Germania e nei Paesi Bassi la disoccupazione sta aumentando, però aumentando tutto sommato meno, è un linguaggio un po' criptico ma adesso ve lo interpretiamo, meno di quanto non stia calando il PIL. Come dire, nonostante una forte contrazione dell'economia di Germania, Olanda e Italia, la disoccupazione aumenta meno di questa contrazione economica. Sul fronte occupazione però oggi è intervenuta la Banca d'Italia, sempre nel bollettino a cui facevo riferimento, legando più che altro l'occupazione all'andamento dei consumi, perché dice la Banca d'Italia in un anno in Italia si sono persi 500.000 posti di lavoro e 300.000 in meno tra i precari. Questo calo dell'occupazione pesa sulle decisioni di spesa delle famiglie, tant'è che gli indicatori sui consumi continuano a peggiorare. Praticamente un indicatore, quello sui consumi, che peggiora dalla metà del 2008 e non dà segni, diciamo, di ripresa. Ancora un paio di notizie per quello che riguarda l'economia italiana. L'inflazione a settembre meno 0,2% rispetto ad agosto, più 0,2% rispetto a un anno prima, per cui dati in linea con le precedenti stime. L'inflazione si conferma intorno allo 0,1-0,2% su base annua. Che cosa è cresciuto di più? Più 2,7% bevande e tabacchi, più 2% l'istruzione, 2% in più anche le comunicazioni, tutto rispetto a un anno prima, l'1,7% in più i mobili, gli articoli per la casa e l'1% in più anche per abbigliamento e calzature, lo 0,7% in più per i generi alimentari. I trasporti hanno fatto un meno 3%, la spesa abitazione, acqua e elettricità meno 1,8%. Calano comunque a settembre rispetto all'anno prima i prezzi dei carburanti, la benzina verde è a meno 11% rispetto a settembre del 2008, il gasolio per autotrazione è sceso del 20% rispetto al settembre del 2008. Visto che stavamo parlando di benzina e gasolio, oggi il dato anche sulle immatricolazioni europee. di auto a settembre, bene soprattutto in quei paesi dove stanno per finire gli incentivi, crescita delle vendite del 6,3% rispetto a un anno prima. Ricordo che in Italia ha fatto un più 6,8 il mercato delle immatricolazioni di auto nel mese di settembre, sempre rispetto a un anno prima. Molto forte in Spagna, più 18%, Gran Bretagna più 11,5%, Germania più 21%, Francia più 14%. Ripeto, stando alle analisi della CEA, sono cresciuti molto quei mercati in cui stanno per arrivare a scadenza gli incentivi, l'acquisto auto. Per quello che riguarda la quota di mercato del gruppo Fiat, è continuata a salire, è arrivata all'8%, praticamente più 13,7% rispetto a un anno prima. Bene anche Volkswagen, gruppo Peugeot, Citroën, Nissan, Hyundai e Kia. Male invece Suzuki, Mitsubishi, Chrysler e Daimler. Già oggi su Sole 24 Ore trovate anche altri quotidiani, ma sul Sole soprattutto quello che è l'andamento dei bilanci dei principali gruppi bancari americani. Sono ripartiti i bonus ai manager delle banche d'affari americani, sono ripartiti anche i conti. Oggi ne abbiamo conferma, perché dopo che JP Morgan ieri ha diffuso una trimestrale con un utile nettamente superiore alle stime, quindi si guadagna bene nelle banche che hanno generato questa crisi, lo dico senza nessuna polemica, però insomma, l'utile è salito a 3,6 miliardi di dollari nel terzo trimestre dell'anno. Gli analisti addirittura prevedevano un utile a 51 centesimi per azione, praticamente l'utile è a 82 centesimi di dollaro per azione. Oggi sono arrivati i dati anche di Citigroup, anche qui l'utile va nel terzo trimestre a 100 milioni di dollari, giro d'affari a 20 miliardi di dollari. Ancora la Goldman Sachs vede segnali di stabilizzazione, l'utile nel terzo trimestre balza a 3 miliardi e 200 milioni di dollari. L'accordo sul contratto metalmeccanici, ne abbiamo parlato con neanche nei GR, comunque FIM e WIL hanno firmato un aumento medio di 112 euro pari a 110 euro per il quinto livello. Non ha firmato la FIOM, che ha definito il contratto scandaloso, con il più basso rinnovo salariale da molti anni a questa parte. Primo tema quindi del programma, il mondo del credito, e quindi il fatto che il Consiglio dei Ministri ha dato il via libera alla creazione di un istituto bancario per il Sud. Non si chiamerà Banca del Sud, perché il nome era già stato utilizzato, ma a Napoli l'avevano già registrato, l'ha chiarito lo stesso ministro Tremonti, ma si chiamerà Banca per il Mezzogiorno. Ed è proprio il ministro Tremonti, nell'illustrare lo scopo e l'obiettivo della Banca per il Mezzogiorno, a ricordare che tutti i paesi europei hanno banche regionali proprie, che lo Stato avrà un ruolo di socio promotore e sottoscriverà una quota simbolica dei fondi, poi dopo massimo entro 5 anni uscirà. E partiamo proprio da questo passaggio sul ruolo dello Stato nella Banca per il Mezzogiorno. Lo Stato ha un ruolo di socio promotore, codice civile, i promotori sono quelli che danno il colpo di manovella, ma intorno al tavolo ci sono gli altri soci promotori. Poi lo Stato esce e entra con una cifra molto modesta, lo Stato esce e la struttura cammina da sola sul territorio con la rete delle banche territoriali e sopra la rete delle banche territoriali con una struttura di regia comune, se richiesta e se necessaria. Le singole banche hanno la loro autonomia giuridica, patrimoniale. La struttura sopra non è che le possiede, non è una holding, è una struttura di servizio. Il tutto è accomunato da un logo, da un marchio, che può essere appunto quello registrato Banca del Mezzogiorno. E poi il ministro ha chiarito appunto che vi sarà un'aliquota al 5% per il risparmio raccolto in tutta Italia da questa banca, quindi agevolazioni fiscali. La funzione, per quello che riguarda la Banca del Sud, la funzione che spetterà alle Poste è ancora da definire, e che comunque non sarà un nuovo carrozzone di Stato perché è vietato anche dall'Europa. Questo come risposta più o meno indiretta a quanto detto due giorni fa dalla Presidente Confindustria Marcegaglia, che davanti alle commissioni bilanci di Senato e Camera aveva detto: la Banca del Sud, se non è l'ennesimo carrozzone pubblico, può avere un senso. E allora parliamo di Banca del Sud con chi, diciamo, ha un'operatività anche nel Mezzogiorno, in Sicilia, perché lì ha vari sportelli, e poi rappresenta il mondo delle banche popolari, oltre che essere numero uno del credito valtellinese, del gruppo credito valtellinese, è infatti anche presidente dell'Istituto Centrale delle Banche Popolari, dottor Giovanni De Censi. Buonasera. Buonasera. Allora, lei, oltre che essere presidente di un gruppo che vede tra l'altro la presenza in Sicilia con il credito siciliano, se non ricordo male 140 sportelli solo in Sicilia, è anche presidente dell'Istituto Centrale delle Banche Popolari, quindi nella doppia rappresenta anche, diciamo, il mondo delle banche popolari. Un primo commento a caldo sulla Banca del Mezzogiorno, anzi, Banca del Sud non si poteva usare, come ha spiegato il ministro Tremonti, e quindi l'hanno chiamata Banca per il Mezzogiorno, con questa possibilità di raccogliere denaro e risparmio in tutta Italia, con un'aliquota fiscale agevolata al 5%, ancora da definire il ruolo delle Poste Italiane. Presidente. Aspettiamo di leggere con attenzione il decreto e vediamo come mi sembra che sia indirizzato a qualcosa di specifico. Le banche si distinguono per lo scopo che perseguono, ci sono banche universali o banche retail come le nostre, che sono banche destinate proprio a sostenere solo l'economia dove operano e non svolgono attività né di merchant banking né di asset management né nient'altro. Questa mi sembra una banca di secondo livello, se ho capito, la quale dovrebbe esserci la partecipazione anche di altre aziende di credito che hanno già le loro reti sul territorio, e quindi attraverso queste può questa banca di secondo livello, del resto l'Istituto Centrale delle Banche Popolari è una banca di secondo livello perché ha tra i soci 50 banche, e fa un'attività sola, che è quella di seguire i sistemi di pagamento e di tutta la monetica. Così penso che anche questa banca, fatta per Banca del Mezzogiorno, sia una banca destinata a perseguire investimenti specifici in infrastrutture o in attività di particolare interesse dove manca il sostegno finanziario, raccogliendo i fondi in giro per l'Italia con questi strumenti agevolati che il Ministro ha annunciato. Io credo che banche di secondo livello di questo tipo hanno spazio per realizzare i loro scopi, dipenderà da come è organizzato il management, come è organizzato la governance, come è organizzato il processo decisionale. E tutto questo però noi siamo ben pronti a collaborare da sempre, perché siamo presenti nel Sud con banche che fanno già questa attività, e ben vengano banche specializzate in questo settore. Quindi lei ci conferma che, da quello che si è capito, non sarà una banca retail, vuol dire la banca classica con gli sportelli che presta soldi ai clienti, imprese o cittadini, né una banca universale, cioè le grandi banche che oltre a fare retail fanno anche banca di investimento, banca, gestiscono i risparmi e li allocano. Dovrebbe essere una banca, come era chiamata, di secondo livello. Una banca di secondo livello finalizzata a sostenere aree particolarmente deboli, cioè io non penso che si possano utilizzare reti come quelle delle Poste con 14.000 sportelli per andare a fare il credito ai piccoli imprenditori o ai privati. Credo perché il credito è legato a una relazione profonda di conoscenza che non è patrimonio, non si inventa. Insomma, le banche hanno anche dei track record che vengono dalla storia, le relazioni sono cose che si conquistano una per una, cioè non è una cosa che si compra all'ingrosso. Però una banca di secondo livello, cioè fatta che utilizza le reti presenti sul territorio per sostenere, cioè un istituto specializzato e finalizzato per qualcosa di sostenere nel Sud, può avere la sua ragione d'essere. Ecco, sulla base della vostra esperienza, visto che voi avete acquisito anni fa il credito siciliano, fa parte del gruppo Creval, 140 sportelli. Esiste una specifica difficoltà ulteriore nel rapporto credito piccole e medie imprese, oltre che credito ai cittadini, nel nostro mezzogiorno, oltre alla difficoltà, e adesso ne parleremo, complessiva del paese nel rapporto tra credito e piccole imprese? Ma io credo di no, credo che ci sia più una difficoltà nel sostegno delle infrastrutture e nel sostenere i finanziamenti di questo. Nella nostra esperienza, noi siamo in Sicilia da oltre 10 anni, e come lei ha ricordato, con 140 punti vendita, quindi siamo presenti in tutte le province, quindi conosciamo bene questa realtà. Vediamo anche in questa situazione che la domanda di credito è diminuita perché la crisi è molto forte, in Sicilia si sente anche di più che in altre regioni, perché la reazione e la struttura, diciamo, del tessuto industriale è molto più debole che negli altri paesi, quindi ma non è che non venga dato il credito. Io sono solito dire che bisogna stare attenti, perché forse si fanno più danni con l'eccesso di credito che col credito invece dato con oculatezza, perché l'imprenditore deve riuscire a perseguire i suoi obiettivi, deve avere un cash flow sufficiente per pagare interessi e rimborsare le quote di capitale, ma se a un certo punto l'economia si ferma, si rallenta e il fatturato scende, non è la questione di avere più credito per andare avanti. Le banche giustamente hanno sottoscritto anche la nostra accordi fra AVI e Ministero per dare all'impresa la possibilità di avere una moratoria sul rimborso dei capitali per un anno. Abbiamo sottoscritto accordi con la Cassa Depositi e Prestiti per dare finanziamenti di questo tipo. Cioè, si fanno tutti questi interventi, ma non è che non ci sia risposta sufficiente, è che la domanda sta diminuendo perché si è rallentata l'economia. ...17:37, di nuovo in diretta con Sebastiano Brisoni. Prima di commentare la chiusura di borsa, chiusura invariata, concludiamo l'intervista con il presidente del gruppo Credito Valtellinese, nonché presidente dell'Istituto Centrale delle Banche Popolari Italiane, Giovanni De Censi. Siamo partiti, lo ricordo, dalla banca per il mezzogiorno annunciata oggi dal ministro Tremonti. Come ricordavo, voi avete oltre 140 sportelli in Sicilia con il credito siciliano, però c'era anche il tema del bollettino della Banca d'Italia, che ha segnalato un abbassamento dell'erogazione di credito verso le imprese anche ad agosto, erogazione di credito complessiva, -2,2 in media, -3,5 quelle, le 5 banche più grosse. Allora, visto che voi siete una banca popolare, vi ha elogiato il mondo delle banche popolari del credito cooperativo lo stesso ministro Tremonti, voi avete fatto anche ricorso per una piccola quota, ma i Tremonti Bond, ci tenete al territorio, vivete con le piccole e medie imprese, con gli artigiani, mi dica, presidente De Censi, a che punto siamo di questo guado, perché non riusciamo mai a capire, la Banca d'Italia da un lato e dall'altro però il mondo bancario dice no, non è vero che c'è una carenza nell'erogazione di credito, c'è solo una non richiesta di credito da parte delle imprese e un aumento delle sofferenze. Senta, dottor Borisoni, non torniamo su un discorso di fondo che ha generato la crisi. Le faccio un esempio che ho usato anche recentemente. Se noi abbiamo 100 di raccolta e investiamo per 100, oggi il rapporto impieghi depositi è 1-1, e lo era anche un anno fa, lo era 2 anni fa, questo vuol dire che non c'è nessuna riduzione del credito alle imprese. Certo, ci sono anche imprese che avevano il 120% su 100 e quindi forse quello che ha creato nella crisi hanno dovuto rallentare. Quindi maneggiare le statistiche è una cosa un po' delicata. Le banche del territorio, le banche retail come la nostra, come le banche di credito cooperativo, eccetera, hanno continuato a finanziare. Noi nei primi 6 mesi, cioè se lei guarda 30 giugno 2009, abbiamo avuto un incremento anno su anno dell'ordine del 17%. Nei primi 6 mesi di quest'anno l'abbiamo avuto solo del 5,5%, e così continuiamo anche nell'ultimo trimestre, cioè non c'è caduta, perché come le dicevo il rapporto è se raccolgo 100 e investo 100, più di questo io come banca non posso fare, perché sennò dovrei andare a crearmi un rischio che è quello che ha causato i guai alle banche americane. Per cui lei dice il calo che registra la Banca d'Italia è dovuto al fatto che ci fosse un eccesso di esposizione sul credito, non una contrazione. Esattamente, io lo penso così. Vabbè, per cui, insomma, nessun problema nel rapporto con le piccole e medie imprese, nel rapporto con gli artigiani, nessuna restrizione? No, non abbiamo difficoltà del genere, perché tutti noi siamo consapevoli che sostenere la piccola e media impresa è la nostra forza e noi sopravviviamo perché questi sono i nostri clienti, non ne abbiamo altri, noi lavoriamo per loro, il nostro scopo statutario è quello di sostenere l'economia dove operiamo e se facciamo morire noi i nostri clienti ci creiamo un danno. Certo che la crisi ha fatto aumentare i crediti non performing, gli accantonamenti, i nostri bilanci soffrono perché le sofferenze si sono raddoppiate e quindi le nostre perdite sui crediti sono raddoppiate, però siamo un'impresa, dobbiamo accettare anche noi il danno che deriva da una crisi grave, ma non per questo abbandoniamo i nostri clienti, saremmo dei suicidi se noi non sostenessimo le piccole e medie imprese. Allora, no, visto che, come ricordavo, il vostro gruppo è una banca cooperativa composta da 6 banche territoriali, cioè Credito Valtellinese, Credito Artigiano, Credito Piemontese, Credito Siciliano, Banca Artigianato e Industria, Cassa Risparmio di Fano, quasi 500 sportelli e più di 800.000 clienti, voi avete utilizzato i Tremonti Bond per 200 milioni di euro. Esatto. E tra l'altro il ministro Tremonti ha detto, vedete, loro li usano perché fanno il loro mestiere, prestano soldi sul territorio, ce l'aveva con Banca Intesa, certo, e con Unicredito. Vorrei sapere come mai li avete utilizzati. Ma li abbiamo utilizzati perché con 200 milioni di sono titoli di patrimonio, perché aumenta il Tier 1 ti consente di poter finanziare per 2 miliardi e mezzo la clientela senza alterare il dato di rapporto patrimoniale con i rischi assunti. Cioè con quei 200 milioni voi potete, certo, siccome sono, possiamo fare 2 miliardi e mezzo in più di credito. In rapporto quasi. Sì, quasi 1 a 15, ma il rapporto è chiaro che è indispensabile, se non si ha patrimonio non potevamo andare oggi in piena crisi dai nostri soci, poi lo faremo, a dire ai nostri soci dateci un po' di quattrini perché dobbiamo andare avanti, l'hanno sempre fatto, noi che abbiamo soci che sono anche nostri clienti, tutti i nostri soci sono anche nostri clienti, abbiamo oltre 100.000 soci, ma non abbiamo solo quelli, ne abbiamo, come lei ha detto, altri 700.000 che non sono soci, però hanno interesse ad avere una banca sempre pronta a intervenire, quindi il rapporto del patrimonio con l'indebitamento deve essere sempre mantenuto, questo rapporto nel gruppo complessivo del Credito Valtellinese deve stare intorno a 1 a 10 e quindi noi abbiamo ben volentieri preso i 200 milioni che ci ha dato il Ministro del Tesoro a un prezzo di mercato, perché sembra così, ma al momento in cui sono stati emessi, questo era un buon prezzo, 8,5, perché io avevo fatto delle quotazioni su Londra per vedere il confronto e chiedevano il 12, il 13, il 14% per ottenere le stesse cose. E quindi, sa, se andava a fare una preference share su Londra in quel periodo le pagava quasi il 30% in più e quindi è stata un'ottima cosa. Va bene, in bocca al lupo anche a voi e a tutto il mondo delle banche popolari, grazie al presidente del gruppo Credito Valtellinese e presidente dell'Istituto Centrale delle Banche Popolari, Giovanni De Censi. Grazie, grazie dottor Barisoni. Ma insomma, è bello anche il pluralismo. Il Credito Valtellinese ha appena spiegato perché i Tremonti Bond erano convenienti in quel periodo, ne ha presi 200 milioni, altre banche, lo dico a chi scrive, hanno ritenuto nella piena legittimità, abbiamo fatto due puntate di fila su questo, nella piena legittimità di non averne bisogno, che fossero troppo cari, che fosse più conveniente trovare liquidità sul mercato. Io ritengo che non sia sempre la stessa cosa, perché appunto quelle obbligazioni lì permettevano, essendo così garantite, di avere un rapporto 1 a 15, quindi appunto con 200 milioni potevi prestarne per 2 miliardi e mezzo senza modificare il tuo stato patrimoniale, diciamola così. Allora, la borsa e poi gli altri temi del programma. A chi dice ma non è vero, insomma, noi non possiamo fare altro che sentire i banchieri e la Banca d'Italia e sentire gli imprenditori. mi rendo conto anch'io che il mondo delle banche neghi un restringimento del credito, però insomma oltre non possiamo andare, eh? Noi prendiamo atto di quello che scrivono gli artigiani, gli imprenditori, prendiamo atto di quello che dicono le banche, la borsa adesso. Chiusura invariata alla fine per Milano, un po' negativa invece sul FTSE All, parlavo del FTSE MIB che è invariato, FTSE All meno 0,27%, Parigi invariata, Francoforte meno 0,40%, come Londra che ha perso lo 0,4%, l'America perde lo 0,25% in questo momento. Euro vicinissimo a quota 1,50, siamo a 1,49,45, come sempre Radio Colli sulle 24 ore per il commento di borsa. Paolo Paronetto, buonasera. Buonasera a tutti. Allora, sì, l'euro si sta avvicinando, attenzione, non siamo ancora al record storico, lo dico a chi scrive, è a 1,60 ed è fu raggiunto il 15 luglio del 2008. Però 1,5 è già vicinissimo al record storico. Allora Paolo, giornata oggi moscina sui mercati quanto a indici, del resto dopo i rialzi di ieri era comprensibile. Forse degno di nota oggi il settore legato ai produttori di telefonini, comunque di microprocessori, perché è andata male Nokia da un lato e male anche in Italia, dove è quotata meno 10,5%, pesante il calo su Nokia. E anche STMicroelectronics perde l'1,3%. Sì, esattamente, diciamo che oggi in una seduta incerta il tema principale è stato proprio quello del comparto tecnologico dopo i conti di Nokia. Ricordiamo che Nokia appunto ha registrato la prima nel terzo trimestre dell'anno, la prima perdita trimestrale nell'arco di un decennio. Nokia ha perso nel trimestre 559 milioni contro un utile di oltre un miliardo nello stesso periodo del 2008. La notizia ha immediatamente affossato i titoli di Nokia che a Helsinki hanno perso circa l'11% e tutto il comparto tecnologico europeo che a livello di sottoindice ha perso circa il 3,5%. A Piazza Affari la notizia ha ovviamente impattato su STMicroelectronics, di cui ricordiamo Nokia è il principale cliente. ST ha perso, è stato tra i peggiori della seduta, ha perso circa l'1,3% e ha accelerato il ribasso immediatamente dopo la pubblicazione dei conti di Nokia. Dopo le informazioni per chi in viaggio, altri titoli, a partire dal caso Impregilo, l'effetto ponte sullo stretto, dall'altro anche risanamento, perché si intravede un risanamento per risanamento e di questo il mercato prende atto. Di nuovo in diretta per commentare la borsa. Allora Paolo Paronetto, al di là delle vicende di STMicroelectronics e soprattutto Nokia, meno 11% in Finlandia, meno 10% anche da noi, oggi abbiamo visto Impregilo in rialzo, non enorme, ma insomma in una giornata piatta va bene anche così, e più 1,4%, Lecir più 2,4% e Monte dei Paschi più 2%, Fiat beneficia delle immatricolazioni auto europee, l'abbiamo già detto, più 1,6%. Allora io direi Impregilo, CIR e Monte dei Paschi. Sì, per quanto riguarda Impregilo, il titolo ha reagito dopo una serie di sedute di ribasso e a dare là agli acquisti sono state le parole di ieri del Presidente del Consiglio Silvio Berlusconi, secondo cui tra dicembre e gennaio si comincerà a realizzare l'infrastruttura per il ponte sullo stretto di Messina. Un obiettivo questo definito impegnativo dell'amministratore delegato della società che costruirà il ponte sullo stretto. C'è l'effetto ponte su Impregilo. Sì, esattamente, Impregilo è tra le principali società del consorzio che dovranno realizzare il ponte, quindi la prospettiva di un concreto avviamento dei lavori ha spinto a rialzo il titolo. Per quanto riguarda CIR invece c'è una serie di fattori, un giudizio positivo da parte degli analisti di Kepler che hanno alzato la raccomandazione a buy, quindi hanno consigliato di comprare il titolo, e inoltre in mattinata sono arrivati i conti positivi della controllata HSS che è attiva nel settore sanitario, e quindi tutti questi fattori insieme inoltre al buon momento di tutto il comparto editoriale a Piazza Affari, ricordiamo che CIR controlla tra le altre cose anche l'Espresso, hanno spinto alla rialzo il titolo che ha chiuso a più 2,38% al primo posto tra le blue chip. Per quanto riguarda invece il Monte dei Paschi di Siena, oggi è stata la migliore tra i titoli bancari, uno dei pochi a mettere a segno rialzi consistenti, dato che tutto il settore è stato un po' penalizzato dai conti di Citigroup. Su MPS c'è stato oggi le indiscrezioni riportate dal Sole 24 Ore, secondo cui potrebbe avvicinarsi la cessione dei 135 sportelli che il gruppo deve cedere per ragioni antitrust e che ormai è bloccata da un po' di tempo. Secondo il Sole, gli inglesi di Barclays potrebbero rilanciare, quindi alzare la loro offerta, che inizialmente era di circa 3 milioni, per portarla a circa 4 milioni. La richiesta del Monte dei Paschi è ancora ferma sui 5 milioni, ma insomma la forbice sembra un po' stringersi. Sul risanamento invece, come molti di voi già sanno, il titolo ha guadagnato quasi il 25%, in realtà lì c'è una notizia, come sempre su questo titolo, che riguarda di carattere più giudiziario che non di carattere finanziario, perché in sostanza il mercato ha visto nel fatto che la Procura abbia deciso di non presentare opposizione al piano di salvataggio, l'ha visto come un passo in avanti rispetto al passato. Ricordo che scrive di Tiscali che i prezzi dei Tiscali sono molto illusori, come erano illusori i valori alti e i rialzi. Oggi è illusorio il 33,7%. Grazie a Paolo Paronetto. Vedo di Radio Corriere sulle 24 ore molti messaggi sulla Banca del Sud, sulla fiscalità al 5%. Allora torniamo a parlare di Banca del Mezzogiorno. Perché è stato lo stesso ministro Tremonti a chiarire il concetto del 5%, di un'aliquota 5% per la raccolta di risparmi in Italia, che verrà data, concessa a questa banca per il Mezzogiorno. C'è un altro elemento che non riguarda solo la Banca del Mezzogiorno, riguarda tutto il credito nel Mezzogiorno ed è costituito da uno strumento bancario che può avere la forma dei certificati, dei titoli, è tutto da costruire e da vedere, che organizzato come segue: una persona, una famiglia va in banca, sceglie quella forma di impiego, il capitale così raccolto viene canalizzato nel Mezzogiorno. Gli interessi sul capitale così raccolto, il rendimento sul capitale così raccolto hanno un'aliquota del 5%, quindi un'aliquota di grande favore. Questo significa che in tutta Italia chi decide di impiegare, naturalmente in banca, perché i soggetti emittenti sono soggetti bancari, quindi con tutte le garanzie della banca, decide di acquistare quegli strumenti, ha un favore fiscale di un qualche rilievo. Naturalmente l'entità del rilievo dipende da quanti sono gli interessi, adesso sono bassi, potranno salire. 5% è l'aliquota più di favore che c'è in questo ordinamento, che c'è in Italia e credo anche in molti altri paesi europei. E noi siamo convinti del fatto che questo canale può essere anche molto importante per lo sviluppo dell'economia del Mezzogiorno. Questo per quello che riguarda l'agevolazione fiscale di una tassazione, appunto, di un'aliquota del 5% per i soldi raccolti in tutto il paese. Il ruolo delle poste, chiedono molti di voi al 349-238-6666, la risposta del ministro Tremonti. Un ruolo può avere, ma lo dobbiamo ancora definire, e questo potrebbe essere un ruolo molto importante, lo può avere Poste S.p.A., le poste. Noi prevediamo che nel comitato promotore ci siano le poste. C'è anche la possibilità che le poste svolgano una funzione complementare o sussidiaria o contrattuale al servizio di questa struttura di banca. Dobbiamo studiare e vedere, abbiamo un'enorme fiducia nel management delle poste e nella struttura delle poste, che è una delle grandi strutture di presidio territoriale e sociale di questo paese. E allora, prima del GR, ricordo anche un'altra precisazione del Ministro. Dopo i timori avanzati dalla Presidente di Confindustria, Marcegaglia, due giorni fa in Commissione Bilancio, al Senato e alla Camera, che aveva detto va bene, può essere una buona, può avere un senso, basta che non diventi l'ennesimo carrozzone pubblico come nel passato, Tremonti ha detto non è possibile, non diventerà un nuovo carrozzone perché è vietato anche dall'Europa. 18:09 di nuovo in diretta da con Sebastiano Barisoni e Focus Economia. Allora, per quello che riguarda i temi toccati dal rapporto Einaudi, vi arriveremo tra un attimo, anche alla luce del bollettino diffuso oggi da Banca d'Italia, che già abbiamo ricordato in apertura del programma. Come annunciato, ci occupiamo di un tema a cavallo adesso tra ecologia ed economia, perché oggi si è tenuto alla presenza del Ministero dell'Ambiente Stefania Prestigiacomo il convegno Agricoltura Ambiente insieme verso Copenaghen. Poi a Copenaghen vi sarà il vertice dei ministri europei, e in questo ambito è stato annunciato un progetto che ha un costo economico, ha un rilievo economico, ma anche un rilievo ambientalistico. Ecco perché ne parliamo volentieri con il presidente Confagricoltura Federico Vecchioni, che ha annunciato appunto verranno piantati in Italia 1 milione di alberi. Presidente Vecchioni, buonasera. Buonasera a voi. 5.000 ettari, 1 milione di alberi, quanto costa? Beh, sotto profilo dell'impegno degli agricoltori costa molto lavoro, sotto profilo dell'impegno finanziario si parla di qualche decina di milioni di euro, ma il dato, come lei ricordava, più che economico-finanziario, è un dato importante sotto il profilo della tutela dell'ambiente, del contributo che l'agricoltura ha dato e vuole continuare a dare alle zone marginali e anche improduttive. L'abbiamo proposto in vista del prossimo vertice di Copenaghen, ma l'abbiamo anche fatto per dare un segnale concreto di come in questi mesi e in questi anni si sia avuto anche un approccio sbagliato all'attività produttiva nei confronti dell'ambiente. Oggi l'agricoltura, laddove esiste, tutela il paesaggio, e difendere l'ambiente significa anche difendere la vita dei cittadini. Quindi complimenti. I tempi di realizzazione? I tempi sono commisurati, come abbiamo detto, alle modalità con cui le nostre imprese si muoveranno all'interno delle diverse regioni, ma sono tempi contenuti perché si tratta esclusivamente di individuare le aree, questo è già stato fatto dal nord al sud Italia, e di individuare le piante più idonee a seconda degli areali dove verranno collocate, per cui nel giro diciamo di 24 mesi il percorso di messa a dimora sarà realizzato. Allora, l'iniziativa è sicuramente lodevole, per questo l'abbiamo ripresa in un programma economico, perché ha un costo economico ma va, ripeto, al di là della finalità economica pure semplice. Torno però ai temi classici di questo programma, prima di salutare la Presidente, perché voi oggi siete tornati con un comunicato sul tema della forchetta tra i prezzi della produzione agricola e quello che poi è il prezzo del bene alimentare, di chiaramente di derivazione agricola, quindi ortofrutto in primo luogo. Sul banco noi continuiamo a ricevere, ne abbiamo parlato anche recentemente con il ministro Zaia, indicazioni di prezzi in netto calo non solo nel settore lattiero caseario, quindi latte, formaggi, mais e altre culture. Tutti i prezzi del mondo agricolo sono in calo, e questo però non fa che aumentare la differenza tra quanto guadagna, quant'è il costo iniziale del bene e quanto costa noi quando dobbiamo portarlo poi in tavola. Chi ci sta speculando? Ma io mi auguro che diciamo non si tratti di speculazione, perché se così fosse certamente le autorità competenti, come si dice, se ne dovrebbero occupare, e non ho dubbi che lo stiano facendo. Laddove invece questa forchetta è generata da una difficoltà e da una criticità strutturale che poi noi abbiamo oggi sulla filiera agroindustriale, questa va sanata attraverso certamente un contenimento dei costi che gravano sull'intero percorso che la merce fa dal campo alla tavola. Resta però l'elemento per noi più difficile da digerire, diciamo così, come comparto primario, che è quello di una effettiva difficoltà del settore, perché soprattutto nei confronti della grande distribuzione le forti campagne promozionali, la necessità di entrare sullo scaffale a dei prezzi molto ma molto contenuti rispetto ai costi di produzione sostenuti dall'agricoltore rischiano di compromettere in modo significativo la possibilità di poter rifornire come agricoltura la grande distribuzione italiana, e quindi in questo senso la capacità contrattuale oggi tra mondo dell'agricoltura e della distribuzione è veramente sbilanciata verso la distribuzione. Auguriamoci che non sia così e che sia solo una rigidità della filiera? L'augurio è un augurio, se vogliamo, di carattere politico e di responsabilità della filiera. Purtroppo i fatti, come lei ricordava, non ci stanno dando segnali incoraggianti. Speriamo un giorno di commentare. A questo punto mi sembra chiaro però che l'imputato, se così possiamo chiamarlo, può essere solo la grande distribuzione da un lato e i grossisti dall'altro, cioè le parti. Noi abbiamo sempre fatto, diciamo, non per essere cerchiobottisti, delle difficoltà della filiera anche nei confronti di questo divario, un ragionamento teso a ricercare le soluzioni più che i colpevoli. Certo è che in questo momento, come è sotto gli occhi di tutti, è difficile spiegare a un agricoltore che il suo prodotto non ha mercato e se ce l'ha è un mercato che non copre i costi e che lo stesso agricoltore che va a fare la spesa trova la merce a dei prezzi in molti casi non compatibili con il suo potere d'acquisto. Quindi questa discrasia non può più essere un'episodica, ma deve trovare certamente delle soluzioni. Grazie e buon lavoro anche al presidente di Confagricoltura Federico Vecchioni. Grazie a voi, arrivederci. Vabbè, lo so, vedo i messaggi, ma anche questo è un po' come rapporto banca-imprese, uno di quei temi che restano sempre sospesi, dove e chi ha la colpa di questi rincari o del non calo dei prezzi poi sul banco. Minuti, ultima parte di Focus Economia. E allora, 14° rapporto della Fondazione Einaudi alla scuola della crisi le varie analisi lanciate come ogni anno dal curatore della ricerca Mario De Aglio. Attenzione, l'Europa rischia qualche anno giapponese, ossia stagnazione economica e bassa inflazione, e attenzione anche a non pensare che, siccome la crisi è una parte più forte, è alle spalle, si possa risolvere con piccoli aggiustamenti tecnico normativi. Il tutto nel giorno in cui la Banca d'Italia diffonde un bollettino in cui si vede il PIL italiano crescere nel terzo trimestre per la prima volta dopo 5 trimestri consecutivi di calo, e però punta l'indice sulla disoccupazione che, avendo creato 500.000 di nuovi disoccupati come dato, questa crisi rischia di penalizzare ulteriormente i consumi. Comunque il nostro Paolo Piacenza ha parlato del rapporto, della fotografia e anche delle prospettive con il curatore Mario De Aglio. Sono cambiati tutti i parametri con cui una generazione di analisti, di economisti, di operatori finanziari usava correntemente. È come se uno si trovasse di fronte a un computer nuovo, un sistema operativo nuovo, e non sa bene i tasti che cosa possono fare. Quindi in questa situazione bisogna avere l'onestà di dire che non sappiamo. Cioè, troppe volte gli economisti sono tentati di farlo, i mezzi di informazione li tentano ancora di più, dire come sarà. Io comincio col dire che non lo so, che posso con una certa cautela escludere certe situazioni e poi sulle altre dare forse un qualche livello di probabilità. Allora io faccio la mia parte l'attento e le chiedo: quali sono gli elementi su cui si può fare affidamento? Gli elementi su cui si può fare affidamento riguardano soprattutto la stabilizzazione del mondo finanziario, che è stata portata a termine con un certo successo, per cui adesso le banche vengono fuori con dei bilanci che recuperano una parte delle perdite del passato. Ampliando lo sguardo, possiamo fare affidamento, ma per noi piuttosto poco, sulla forte ripresa cinese, sulla continuazione della ripresa indiana e brasiliana. Ecco, questi sono gli elementi principali. Sul resto l'area di incertezza, la nebbia, comincia lì. Uno degli elementi di incertezza è anche il non completamento, diciamo così, del quadro di riforme regolative del sistema dei mercati internazionali, perché si ritiene, a detta di molti analisti, che questa opera sia iniziata, sia stata approcciata, ma non sia stata completata, quantomeno non con la dovuta profondità, con la dovuta compiutezza. All'interno di questo elemento un fattore importante è anche il riassetto del quadro valutario, insomma, no? Quindi del rapporto tra dollaro e altre monete. È ipotizzabile in questa situazione di equilibrio di potere che si possa fare un passo ulteriore, secondo lei? Non in maniera, non come l'hanno presentato i media di solito. E cioè si tende a pensare che queste regolazioni siano un fatto tecnico. Cioè basta che troviamo una formuletta, facciamo una cosa, compiliamo un modulo in più, facciamo questo e mettiamo tutto a posto. Non è così. Dietro a queste regole c'è uno scontro di potere. In questo momento il potere è ancora in mano agli americani. Se le regole cambiano, gli americani dovranno cedere un po' di potere e gli europei, anche loro, per fare posto a cinesi, a brasiliani, a indiani e ad altri paesi ancora. In questo quadro la disunità, l'incompiutezza del processo di unificazione in termini di politica economica da parte dell'Europa è un elemento di debolezza? È sicuramente un elemento di debolezza. Noi abbiamo una banca centrale, non abbiamo un governo centrale. La banca centrale non può prestare soldi ai governi nazionali per statuto, non essendoci un governo centrale non li presta neanche al governo centrale, quindi uno strumento di rilancio dell'economia ci viene precluso. Veniamo al caso italiano, alla situazione italiana. Quali sono gli elementi del quadro italiano all'interno di questa fase della crisi? Ma gli elementi del quadro italiano sono che si partiva già da una situazione di debolezza, e che la nostra caduta non è stata più grande di quella di altri, ma le stesse dimensioni assolute sono maggiori dimensioni relative. Mi spiego. Dal 2000 a oggi l'Italia era salita da 100 a 102, la Germania era salita da 100 a 108. Tutti e due scendono di meno 5, naturalmente il meno 5 dell'Italia pesa di più di quello tedesco perché si spalma su un PIL minore, quindi noi siamo adesso in un'area lievemente a rischio, cioè dobbiamo fare attenzione a non uscire dal giro dei paesi grandi. Allora, il Presidente della Corte dei Conti, audito oggi presso il Parlamento sulla finanziaria, ha espresso qualche perplessità sulle previsioni, sulla solidità delle previsioni di crescita, in particolare anche sulla solidità dell'esito degli incassi per l'erario in riferimento allo scudo fiscale. Qual è la sua valutazione in merito alle previsioni che danno un più due post-crisi? Ma io credo che tutte queste previsioni abbiano una punta di ottimismo. Cioè, quando si fanno le previsioni, i ministri dell'economia di tutti i paesi non sanno bene e in genere fanno le previsioni su un fondo rosa, se è possibile, no? Perché il resto è politicamente molto più difficile da gestire. Quindi non mi stupirei proprio che ci debba essere poi una manovra aggiuntiva più avanti nell'anno, se i conti saranno, non dico troppo squilibrati in sé, ma troppo squilibrati rispetto agli altri paesi europei. Cioè, se tutti li squilibriamo allo stesso modo, in fondo le cose possono tenere. Il fatto è che noi abbiamo già un debito così alto che il mercato non è che ce li presti con grande allegria i soldi, e quando non è allegro ce li fa pagare di più. Alcuni dati che emergono dal bollettino di Banca Italia questa mattina, un dato che appare positivo, poi va verificato, torna a crescere il PIL nel terzo trimestre a fronte di un recupero proprio della produzione industriale quando c'era stato un pesantissimo calo della produzione industriale tra secondo semestre 2008 e secondo semestre 2009. Quanto valore va attribuito a questo elemento e quanto invece ad altri elementi negativi come l'aumento della disoccupazione e soprattutto la non ripresa dei consumi? Io credo che questa sia da iscriversi nelle previsioni rosee. L'impressione, guardando dei dati a livello micro, è che sia andato relativamente bene luglio e agosto. Agosto abbiamo avuto questo recupero di produzione industriale, peraltro non significativo perché il mese pesa poco, ma che poi settembre, non solo in Italia, ma anche negli Stati Uniti e altrove, sia andato meno bene. Quindi può darsi che la somma di questo sia un segno positivo, però è un segno positivo che non è particolarmente foriero di crescita, così come adesso. Anche le evidenze aneddotiche che anche Radio 24 raccoglie tra gli operatori danno l'idea di queste difficoltà diffuse, e non è precisamente il clima che ci attenderemmo all'inizio di una strada tranquilla verso la ripresa. Siamo ospiti di una banca, non le faccio bisticciare con le banche, però sempre Banca Italia registra una ulteriore contrazione del credito nel secondo trimestre. Il flusso di nuove sofferenze rettificate in rapporto ai prezzi complessivi annualizzato e al netto dei fattori stagionali ha raggiunto l'1,9%, era l'1,6% nel primo trimestre. Migliorano per contro i coefficienti patrimoniali dei principali gruppi bancari. Allora, in questa situazione c'è una responsabilità dell'atteggiamento del sistema bancario nel suo complesso, poi ci sono delle eccezioni ovviamente nei confronti delle possibilità di ripresa dell'economia reale nazionale. Io credo di no, perlomeno non grandissime. Le banche si trovano in questa difficile situazione. Da un lato si chiede loro di impegnare delle risorse per ricapitalizzare, quindi di prestare di meno. Dall'altra di fare i buoni e quindi di dare di più o comunque dare le stesse cose di prima. Ma quando ti viene un'impresa a chiederti il rinnovo del fido, ti fa vedere il bilancio, ha un fatturato che si è ridotto del 50% e ti dice che comunque prevede che la riduzione continuerà, fare il buono vuol dire tradire la funzione della banca. Cioè non tocca alla banca risolvere queste deficienze strutturali dell'impresa. Per questo io da tempo sostengo che una qualche istituzione pubblica, secondo me la Cassa Depositi e Prestiti, potrebbe intervenire in qualche modo a dare, ci sono vari modi tecnicamente possibili, a dare una mano alla solidità delle imprese. Un'ultima domanda relativamente ai conti pubblici, c'è un rischio di peggioramento, anzi si registra secondo Banca Italia un netto peggioramento, in particolare si parla di primi 9 mesi del 2009 il gettito tributario erariale si è ridotto del 3,2%. Ora questo quanto può pesare in termini di contributo alla ripresa, di mancato contributo alla ripresa e quanto invece si può rischiare un peggioramento dei conti pubblici in questa fase? Noi dobbiamo rischiarlo. Dobbiamo sperare che ci vada bene, non abbiamo nessuna difesa precostituita, siamo già in una posizione debole con il debito pubblico che è molto alto, altri paesi come Francia e Germania possono andare giù molto più pesante con il deficit, noi no, ma il poco deficit in più che abbiamo purtroppo è inevitabile. Questa è l'intervista del nostro Paolo Piacenza, curatore del 14° rapporto della Fondazione Einaudi, Mario De Aglio. Avete sentito, interessante anche l'ultima parte, quasi keynesiana. Non possiamo permetterci troppi margini perché abbiamo già un debito molto alto, ma un po' di deficit dobbiamo rischiarlo. È l'unico strumento per avere un'uscita dalla crisi che non strangoli quel poco di ripresa che si inizia a vedere. Da Sebastiano Barisoni è veramente tutto, a voi in ascolto un auguro di buona serata, ci risentiamo domani dalle 17 in poi.